ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Nonostante tutte le disavventure, il ricordo dell'assegno di $40 del White Mouse sosteneva ancora Martin, anche se era costretto a dedicarsi sempre di più al lavoro mercenario di Indovinelli. Scoprì una fonte di sostentamento nei settimanali delle associazioni agricole e commerciali, mentre se fosse stato per i giornali religiosi avrebbe potuto morire di fame. Nel punto più basso, quando il suo abito nero era al banco dei pegni, Martin mise a segno un colpo grosso, o almeno così gli sembrò, in un concorso organizzato dal comitato regionale del Partito Repubblicano. Il concorso si articolava in 3 sezioni e Martin si iscrisse a tutte, ridendo amaramente di ciò che era costretto a fare per vivere. La sua poesia vinse il primo premio di $10. La canzone politica il secondo premio di $5 e il suo saggio sui principi del Partito Repubblicano vinse il primo premio di quella sezione, ammontante a $25. Il risultato lo fece sentire molto lusingato, almeno fino a quando non cercò di incassare. Qualcosa non aveva funzionato nel comitato regionale e sebbene un ricco banchiere e un senatore dello Stato ne facessero parte, sembrava che i fondi non sarebbero arrivati. Mentre questo affare non si era ancora concluso, Martin diede prova di aver compreso a fondo i principi del Partito Democratico, vincendo il primo premio per un saggio in un concorso simile. Per di più, questa volta ricevette i soldi, $25, ma non ricevette mai i $40 vinti al primo concorso. Martin, ormai costretto a ricorrere a dei trucchi per poter vedere Ruth, decise di lasciare al banco dei pegni l'abito nero al posto della bicicletta, perché camminare da North Auckland a casa di lei e viceversa gli avrebbe preso troppo tempo. La bicicletta, invece, lo teneva in allenamento, gli permetteva di risparmiare tempo da dedicare al lavoro e di vedere comunque Ruth. Un paio di pantaloni alla zuava e un vecchio maglione costituivano un accettabile completo sportivo che gli permetteva di accompagnare Ruth nelle gite pomeridiane. Martin non aveva più molte opportunità di vederla a casa sua, dove la signora Morse stava continuando con impegno la sua campagna di intrattenimento. Le elette creature che Martin vi incontrava, quelle che fino a poco tempo prima aveva guardato dal basso, ora lo annoiavano. Non erano più elette. Le difficoltà, le disillusioni e l'eccesso di lavoro lo avevano reso nervoso ed irritabile, e la conversazione di quelle persone lo faceva impazzire. Martin non era ingiustamente egoista. Semplicemente misurava la ristrettezza delle loro menti sulla mente dei pensatori scoperti nei libri. A casa di Ruth non aveva mai incontrato una grande mente, con l'eccezione del professor Caldwell, e Caldwell lo aveva incontrato una sola volta. Per il resto, quelle persone erano imbecilli, sempliciotte, superficiali, dogmatiche e ignoranti. Ed era proprio la loro ignoranza a colpirlo. Cosa ne avevano fatto dell'istruzione ricevuta? Avevano potuto accedere agli stessi libri che lui aveva letto, e allora come era potuto succedere che non ne avessero tratto alcun guadagno? E Martin sapeva che le grandi menti esistevano, che esistevano i pensatori profondi, razionali, e ne fornivano le prove i libri, quei libri che lo avevano istruito ben al di sopra dello standard dei Morse. Sapeva che nel mondo si potevano trovare intelletti più potenti di quelli incontrati nel circolo dei Morse. leggeva romanzi che parlavano della società inglese, dove scorgeva uomini e donne intenti a discutere di politica e di filosofia. Leggeva che nelle grandi città, persino negli Stati Uniti, esistevano salotti dove l'arte e l'intelletto potevano incontrarsi. In passato Martin aveva stupidamente pensato che tutte le persone di buona famiglia, al di sopra della classe operaia, possedessero il potere dell'intelletto e il vigore della bellezza. Aveva creduto che cultura e camicie ben stirate andassero insieme e che istruzione universitaria e maestria fossero la stessa cosa. Bene, avrebbe combattuto per andare più avanti, più in alto, e avrebbe portato Ruth con sé. Martin l'amava teneramente ed era sicuro che non vi fosse luogo al mondo dove Ruth non avrebbe potuto brillare. Sentiva che le potenzialità di lei erano tarpate dall'ambiente in cui era cresciuta, così come lo erano state quelle di lui. Ruth non aveva avuto la possibilità di espandersi. I libri sugli scaffali del padre, i dipinti alle pareti, la musica del pianoforte, si trattava solo di falsa ostentazione. Alla vera letteratura, alla vera pittura, alla vera musica, i Morse e il loro genere erano sordi e ciechi. E più grande di tutto ciò era la vita, che si ignoravano ottusamente, irrimediabilmente. I Morse, nonostante le loro inclinazioni avverse al misticismo in campo religioso e la loro maschera di conservatori tradizionalmente aperti, erano distanti di almeno due generazioni dalla scienza interpretativa. I loro processi mentali erano medievali. Il loro modo di concepire i dati ultimi dell'esistenza e dell'universo colpiva Martin. Era lo stesso metodo metafisico che spinse il primo uomo scimmia del Pleistocene a temere il buio, che spinse il primo ebreo ignorante a incarnare Eva da una costola di Adamo, che spinse Cartesio a costruire un sistema idealistico dell'universo basato sulla proiezione del suo misero ego, e che spinse quel famoso ecclesiastico britannico a denunciare l'evoluzionismo con una satira così feroce da guadagnarsi l'applauso immediato e l'iscrizione nelle pagine della storia. Così pensava Martin, finché non fu assalito dall'idea che la differenza tra gli avvocati, gli ufficiali, gli uomini d'affari e i cassieri di banca che aveva incontrato e i membri della classe operaia che aveva conosciuto era tutt'uno con le differenze dei cibi che i due gruppi mangiavano, degli abiti che indossavano, dei quartieri in cui vivevano. In tutti loro, senza distinzione, mancava quel qualcosa di più che Martin aveva trovato in se stesso e nei libri. I Morse gli avevano mostrato ciò che di meglio la loro posizione sociale poteva produrre, e lui non ne era rimasto impressionato. Pur essendo un povero schiavo degli strozzini, Martin sapeva di essere superiore agli uomini e alle donne incontrati dai Morse. Quando il suo unico abito decente non era impegnato, poteva muoversi tra di loro come un signore della vita, fremendo di uno sdegno simile a quello che proverebbe un principe se fosse costretto a vivere tra pastori e capre. «Lei odia e teme i socialisti?» Martin fece osservare al signor Morse una sera a cena. «Perché? Lei non conosce né loro, né le loro dottrine». Conversazione era stata indirizzata in quella direzione dalla signora Morse, che aveva cantato le lodi del signor Hapgood proprio con intenti provocatori. Il cassiere era la bestia nera di Martin, il quale non riusciva a essere molto paziente là dove si trattava del dicitore di banalità. Ah, Charlie Hapgood, disse Martin, è ciò che si definisce un giovane pieno di promesse. Così mi è stato descritto da qualcuno, ed è vero. Prima di morire si siederà sulla sedia del governatore, o addirittura, chi può dirlo, nel Senato degli Stati Uniti. Cosa glielo fa pensare? Aveva indagato la signora Morse. Ho ascoltato il suo discorso elettorale, continuò Martin. Era così abilmente stupido e banale, allo stesso tempo così convincente, che nessun leader potrebbe aver dubbi sulla sua affidabilità e fedeltà. Inoltre, le insulsaggini che dice sono pressoché le stesse insulsaggini professate dall'elettore medio, e quindi... Oh, lei senz'altro sa che nulla lusinga di più un uomo che vedere i propri pensieri ben addobbati e ben esposti. Sto cominciando a pensare che tu sia geloso del signor Hapgood, si era intromessa Ruth. Oh, mio Dio, no, disse lui. L'orrore sulla faccia di Martin spinse la signora Morse a dichiarargli guerra. Senz'altro... Lei non intende dire che il signor Hapgood sia uno stupido? Gli chiese gelidamente. Non più del repubblicano medio, fu la risposta, o del democratico medio. Ah, sono sempre stupidi, a meno che non siano astuti. E davvero pochi sono astuti. Gli unici repubblicani saggi sono i milionari e i loro consapevoli vassalli. Non sputano nel piatto in cui mangiano. «Io sono un repubblicano», disse frivolmente il signor Morse. «Mi piacerebbe sapere come mi cataloga». «Oh, lei è un vassallo inconsapevole». «Vassallo? Sì, sì, lei lavora per le corporazioni, eh? Non conosce operai o criminali. La sua rendita non dipende da picchiatori di mogli o da borseggiatori. Sono i padroni della società a fornirle la sua pagnotta, e chiunque sfama un uomo è il padrone di quell'uomo. Già, lei è un vassallo, perché è suo interesse far prevalere gli interessi delle grandi aggregazioni di capitale, quelle che lei serve. La faccia del signor Morse era diventata appena appena rossa. «Sono costretto a confessarle, signore», disse, «che lei parla proprio come un furfante socialista. Era stato allora che Martin aveva detto: lei odia e teme i socialisti, ma perché non conosce né loro né le loro dottrine. Le dottrine che ha orora esposto sembrano proprio socialiste», replicò il signor Morse, mentre lo sguardo di Ruth scivolava ansiosamente dall'uno all'altro. Nel frattempo la signora Morse si illuminava di felicità per quell'opportunità di risvegliare la combattività del suo nobile signore. «Il fatto che io dica che i repubblicani sono stupidi e sostenga che libertà, eguaglianza e fraternità sono bolle di sapone ormai scoppiate, non fa di me un socialista», disse Martin con un sorriso. «Il fatto che io attacchi Jefferson e l'irrazionalità della scuola francese della quale è imbevuto... non fa di me un socialista. Mi creda, signor Morse, lei è ben più vicino al socialismo di quanto lo sia io, che, al contrario, ne sono un nemico dichiarato». «Adesso ha voglia di fare dello spirito», fu tutto ciò che l'altro gli oppose. «Affatto. Parlo seriamente. Lei crede ancora all'eguaglianza, eh? Eppure lavora per le corporazioni, le quali, giorno dopo giorno, sono impegnate a seppellire l'eguaglianza. E lei chiama me socialista perché nego l'eguaglianza, perché affermo proprio quello che lei mette in pratica. I repubblicani sono avversari dell'eguaglianza, eppure la maggior parte di loro combatte l'eguaglianza, avendo sulle labbra proprio quella stessa parola come slogan. Nel nome dell'eguaglianza la distruggono. Ecco perché li chiamo stupidi. Per quanto mi riguarda, io sono un individualista. Credo che la corsa vada al più agile, la battaglia al più forte. Questa è la lezione che ho imparato dalla biologia, o almeno credo di aver imparato. Come ho detto, sono un individualista, e l'individualismo è l'avversario genetico ed eterno del socialismo. «Ma lei frequenta le riunioni dei socialisti?» lo sfidò il signor Morse. «Certamente», disse Martin. proprio come le spie frequentano il campo nemico, altrimenti come potrebbero conoscerlo? Tra l'altro trovo i loro incontri divertenti. Sono buoni combattenti e hanno letto molti libri, giusti o sbagliati. Ognuno di loro conosce la sociologia e tutte le altre logie meglio del medio capitano d'industria. È vero. Sono stato a una mezza dozzina dei loro incontri, ma ciò non fa di me un socialista, come ascoltare Charlie Hapgood non fa di me un repubblicano. «Non so cosa farci», disse debolmente il signor Morse, «ma continuo a pensare che le sue simpatie vadano da quella parte». «Povero me», pensò Martin tra sé e sé, «quell'uomo non sa di cosa sto parlando, non ha capito una sola parola». «A che accidenti ha fatto di tutta la sua istruzione?» pensò. Così Martin, nel corso della sua crescita, si ritrovò faccia a faccia con la morale dell'economia, o meglio, la morale di classe, che presto si trasformò per lui in un orrido mostro. Martin era un filosofo morale e, in quanto tale, trovava ancora più offensiva dell'insulsaggine e della relativa pomposità la moralità di coloro che lo circondavano. Uno strano minestrone di economia, metafisica, sentimento e scimmiottamenti. Incontrò un esempio di quello strano e disordinato miscuglio lì, proprio vicino a casa. Sua sorella Marian frequentava un industrioso e giovane meccanico di origini tedesche, il quale, dopo aver accuratamente imparato il mestiere, si era messo in proprio e aveva aperto un'officina per la riparazione delle biciclette, ottenendo in breve tempo la rappresentanza di una marca economica, cosa che lo aveva reso benestante. Poco dopo l'annuncio del fidanzamento, Marian aveva fatto visita a Martin nella sua stanza e gli aveva scherzosamente letto la mano predicendogli la fortuna. La volta successiva, la ragazza aveva portato con sé Hermann von Schmidt. Martin fece gli onori di casa e si congratulò con entrambi, usando un linguaggio così spontaneo e garbato da impressionare sfavorevolmente la mentalità ristretta del fidanzato di sua sorella, Hermann von Schmidt. Peggiorò ulteriormente questa cattiva impressione leggendo loro, ad alta voce, la mezza dozzina di strofe poetiche con le quali aveva commemorato la precedente visita di Marian. Si trattava di versi mondani, vivaci e delicati, che aveva intitolato «La chiromante». Quando finì di leggerli, fu sorpreso di non vedere alcuna gioia sulla faccia di sua sorella. Al contrario, gli occhi di lei, pieni di ansia, erano fissi sul suo promesso sposo, e Martin, seguendo quello sguardo, lesse su quei degni, asimmetrici tratti la più completa e profonda disapprovazione. L'incidente non fu commentato, e i due se ne andarono presto. Martin se ne dimenticò completamente, anche se per un po' si era sentito confuso. Aveva sempre creduto che essere il soggetto di una poesia avrebbe lusingato e deliziato qualsiasi donna, anche appartenenti alla classe operaia. Diverse sere più tardi, Marian si recò di nuovo a trovare Martin, ma questa volta da sola. Giunse immediatamente al punto, senza perdere tempo e girarci intorno. Lo sgridò addolorata per quello che aveva fatto. perché Marian? Lui la rimproverò bonariamente. Perché parli come se ti vergognassi dei tuoi parenti o comunque di tuo fratello? Ed è così, sbottò la ragazza. Le lacrime di mortificazione che Martin vide negli occhi della sorella lo sconvolsero. L'emozione che la turbava, qualunque fosse, era sincera. Ma Marian, perché il tuo Erma dovrebbe essere geloso delle poesie che scrivo su mia sorella? Non è geloso, lei disse singhiozzando. Dice che è indecente, è osceno. Martin emise un lungo, basso fischio di incredulità. Poi prese in mano e lesse una copia carbone de La Chiromante. «Non riesco a vederlo», disse infine offrendole il manoscritto. «Leggilo anche tu e mostrami quello che ti sembra osceno, perché è questa la parola, vero?» «Se Herman ha detto così, deve essere vero», fu la risposta di Marian, che contemporaneamente aveva afferrato e allontanato da Martin il manoscritto, guardandolo con odio. «E lui dice che devi strapparlo, dice che non vuole avere nessuna moglie che ha cose del genere scritte su di lei e che tutti possono leggere. Dice che è una disgrazia e che non la accetterà mai». «Ora ascolta, Marian, sono solo stupidaggini», iniziò Martin, ma poi di colpo cambiò idea. Vide davanti a sé una ragazza infelice, comprese l'inutilità di cercare di convincere lei o suo marito e, sebbene l'intera situazione fosse assurda e ridicola, decise di arrendersi. «D'accordo», annunciò strappando il manoscritto in una mezza dozzina di pezzi e gettandoli nel cestino della carta straccia. Martin si accontentò di sapere che il manoscritto originale riposava nell'ufficio di una rivista di New York. Marian e suo marito non lo avrebbero mai saputo. Né Martin, né gli sposi promessi, né il mondo avrebbero subito alcun danno se quella poesia, gentile, inoffensiva, fosse stata pubblicata. Marian fece per raggiungere il cestino, ma poi si bloccò. «Posso?» supplicò. Martin annuì, guardandola pensieroso mentre raccoglieva i pezzi strappati del manoscritto e se li infilava nella tasca della giacca, la prova oculare del successo della sua missione. Gli ricordò Lizzie Connolly, sebbene sua sorella avesse meno fuoco e meno vitalità di quell'altra ragazza della classe operaia che lui aveva incontrato un paio di volte, ma le due erano uguali in abito e portamento, e Martin sorrise dentro di sé, divertito dal capriccio della sua fantasia che, in quel momento, gli mostrava l'ingresso di entrambe le ragazze nel salotto dei Morse. Ma il divertimento svanì, lasciando al suo posto una profonda solitudine. Quella sorella e il salotto dei Morse erano pietre miliari lungo la strada che aveva percorso, e se l'era lasciata entrambe alle spalle. Martin si guardò intorno, soffermandosi con affetto sui suoi pochi libri. Erano i soli compagni rimasti lì fedeli. «Cosa hai detto?» domandò, riscosso dalla sorpresa. Marian ripeté la domanda. «Perché non vado a lavorare?» Martin scoppiò in una risata sincera solo a metà. «Ah, quel tuo Herman deve averti parlato!» E lei scosse la testa. «Non mentire!» le ordinò. E lei annuì, ammettendo l'accusa di lui. «Bene, puoi dire a quel tuo Herman di badare agli affari suoi, eh? Quando scrivo delle poesie sulla ragazza che frequenta, questi sono affari suoi, ma al di là di questo non ha il diritto di dire nulla. Chiaro? Così non pensi che diventerò uno scrittore di successo, eh?» continuò Martin. «Pensi che sia un buono a nulla, che sia perso, che sia una disgrazia per tutta la famiglia. Penso che sarebbe molto meglio se ti troveresti un lavoro», lei disse con fermezza, e Martin vide che era sincera. «Herman dice...» «Al diavolo Herman!» lui la interruppe. «Quello che voglio sapere è quando vi sposerete. Cerca di scoprire se il tuo Herman si degnerà di lasciarti accettare un mio regalo di nozze». Dopo che Marian se ne fu andata, Martin indugiò sull'incidente. Una o due volte scoppiò in un'amara risata. Vedeva sua sorella e il suo promesso, tutti i membri della loro classe e quelli della classe di Ruth, condurre le loro vite ristrette secondo una formula ristretta, animali da gregge che si ammassavano insieme, modellando le loro vite una sulle opinioni dell'altro, senza riuscire a essere davvero degli individui, senza riuscire a vivere davvero la loro vita a causa delle formule infantili di cui erano schiavi. Martin li richiamò tutti davanti a sé in una processione di apparizioni. Bernard Higginbotham, mano nella mano con il signor Butler, Hermann von Schmidt spalla a spalla con Charlie Hapgood. Uno per uno in coppia, Martin li giudicò e li respinse. Li giudicò secondo gli standard intellettuali e morali che aveva imparato dai libri. Si chiese inutilmente dove fossero le grandi anime, i grandi uomini, le grandi donne. Non li trovò tra le superficiali, grossolane, limitate intelligenze che risposero nella sua piccola stanza all'invito della visione. Sentì di odiarli, come Circe doveva aver odiato i suoi maiali. E dopo aver respinto anche l'ultima immagine, quando già pensava di essere solo, arrivò un ritardatario, inaspettato e non invitato. Martin lo guardò e vide il cappello a tesa rigida, l'abito doppio petto dal taglio squadrato, le spalle minacciose di quel giovane teppista che una volta lui era stato. Anche tu eri come tutti gli altri, ragazzo mio, sogghignò Martin. La tua moralità e le tue conoscenze erano uguali a quelle degli altri. Non pensavi e non agivi per te stesso. Le tue opinioni, come i tuoi vestiti, erano già confezionate. Le tue azioni si formavano sull'assenso generale. Eri il gallo della banda solo perché gli altri avevano decretato che tu eri il massimo. Hai combattuto. Sei stato il capo della banda, non perché ti piacesse. Sai che in realtà disprezzavi quelle cose, ma perché gli altri ti battevano la mano sulla spalla. Hai ridotto in pappa faccia di formaggio, perché non ti saresti mai arreso, e non ti saresti mai arreso, in parte perché eri un bruto ignorante, e in parte perché ognuno di coloro che ti circondavano era convinto che la misura della virilità fosse la ferocia carnivora dispiegata nello sfigurare, nel ferire l'anatomia di altre creature sorelle. E tu obbedivi a questa convinzione. Hai sparso figli illegittimi. Hai rubato le ragazze degli altri non perché tu volessi quelle ragazze, ma perché nella midolla di quelli intorno a te, di quelli che stabilivano la tua morale, c'era l'istinto dello stallone selvaggio e dell'elefante marino. Bene, sono passati alcuni anni. E che cosa ne pensi adesso? Come risposta, la visione subì una rapida metamorfosi. Il cappello a tesa rigida e il doppio petto svanirono per essere rimpiazzati da indumenti più miti. I lineamenti non erano più così rozzi, lo sguardo non più così duro, e la faccia, purificata e raffinata, era illuminata da una vita interiore di comunione con la bellezza e la conoscenza. L'apparizione era molto simile al Martin di oggi, e mentre l'osservava, Martin notò la lampada da tavolo che illuminava il libro sul quale la figura era china. Lanciò un'occhiata al titolo e lo lesse. La scienza dell'estetica. Poi lui stesso entrò nell'apparizione, sistemò la lampada da tavolo e continuò a leggere La scienza dell'estetica. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it.